voce di pietra quando leggiamo e ci incolliamo alla TV. Guardiamo il mondo da un altro piano, come se stasse a testa in giù. Come si può girare il foglio, cambiare canale? Come si può stare a guardare, dimenticare? Si può amarsi uno con l'altro, certo si può, né prede predatori, via i lacci di dolori. Mani di pietra, ognuno abbiamo, dove tocchiamo sono guai. Abbiamo fretta e ci annulliamo, non ci fermiamo proprio mai. Come si può a gareggiare per primeggiare? Come si può non ripulirci da questo male? Si può amarsi uno con l'altro, certo si può, né prede predatori, via i lacci di dolori. Tutta una pietra, il nostro passato, la confusione che c'è in noi, è tutto scontato, meccanizzato, ed atterriamo sempre più. Come si può alzare le spalle e continuare? Però si può il vero amare è migliorare.